Ore 20, precisi precisi, oggi andiamo in Svizzera, mi sa, eh? Oggi è 4 giugno, questa è Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città, ciao, ciao a tutti e a tutti. E dopo il compleanno si avvicina anche la festa della radio, ve lo ricordo, 14 e 15 allo Strike, venite, venite in massa. (Applausi) 06 49 17 50, il famoso www che tanto piace a Fabio, @ondarossa.info, no, www.ondarossa.info e ondarossa@ondarossa.info è la nostra mail. Oh, già rompi, già mai rotto. Ciao Ale. Ciao Fa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Fa, oggi è uscito il sole. Oggi è uscito il sole. Già mi ha stancato sto caldo. Sì, infatti. No, scherzo, non mi ha stancato per niente invece. Va bene così, a strapparsi la pelle. Oggi tutto regga, te lo dico. Io mi sento basso basso, ma si sente secondo te? Boh, vabbè. Se non si sente fateci un trillino. Vabbè, dai, dove andiamo? Kingston? No, andiamo come in no? Scozia. Scozia. Scozia. Troppo caldo, l'hai detto. Sempre sul pezzo stiamo, eh. Vabbè, andiamo in Scozia. Vabbè, mica aspetta. No, ci mancherebbe altro, però. Che la Scozia tra solo pioggia. Non sono rimaste tante puntate, dobbiamo fare una puntata almeno estiva, porca miseria. Il giorno che la faremo pioverà un'altra volta. Vabbè, dai, oggi era l'occasione, non l'hai voluto fare. Sei voluto andare in Scozia. Andiamo in Scozia. Vabbè, tu dici vai. Che andiamo a fare in Scozia? Che andiamo a fare in Scozia? Beh, innanzitutto credo sia un bel paese, lo scoprirò tra poco, comunque poi. Ah, tu vai in Scozia? Vado in Scozia, sì. Ah, veramente? Per portare avanti col lavoro. Ah, ora capisco. Perché, no, io sapevo che dovevi andare da qualche parte, però non mi avevi detto Scozia. Forse mi hai detto? Sì, però rimosso. Penso di... Ah, quindi stiamo a fare la puntata così tu vai lì e sai già tutto quanto. Mazza, bravo. No, in realtà non so molto, però insomma. No, però non si utilizzano così comunque i mezzi della radio e vabbè, dai. Dai. Vabbè, cominciamo, vai. Scemenza a parte, andiamo in Scozia perché non ci siamo mai stati, innanzitutto. L'abbiamo nominata l'altra volta, ci siamo passati nella puntata precedente quando abbiamo fatto un giro per alcuni paesi dell'Unione Europea. Ti sono portato accendino oggi. Ottimo, bravo. E se non è carino se sente il buio. Vuoi accendere? Accende. No, grazie. E quindi andiamo perché non ci siamo mai stati, ma andiamo perché è un paese, già lo sapevamo per carità, però lavorandoci abbiamo scoperto quanto ancora lo è di più rispetto a quello che pensavamo noi. È un paese ricchissimo, ricchissimo di grandissima musica. Noi passeremo, salvo un'eccezione, tutta roba degli ultimi 30 anni, e tra i vari generi la Scozia è fondamentalmente importante perché è stata la casa, insomma, ha dato i natali alle più grandi band, diciamo così, del panorama indie rock, indie pop, poi al di là delle sfumature, però quello sarà il filo cuore della puntata, il filo della puntata. Saremo soprattutto a Glasgow perché è la città più importante dal punto di vista musicale, perché la Scozia non è un paese così grande, poi perché a Glasgow ci sono locali, 5 milioni, studi di registrazione. In tutta la Scozia sono poco più di 5 milioni di abitanti ed è incredibile quanto, in proporzione alla popolazione, forse il paese, insomma, cioè, credo pochi rivali, il più alto numero di musicisti per abitante. Pensi che 5 milioni è Roma e tutta la sua provincia, direi che la cifra più o meno è quella, e vedendo i gruppi, che gli artisti che passeremo oggi in scaletto, abbiamo tagliato quelli che abbiamo lasciato tantissimi, insomma, il rapporto fa abbastanza paura. Faccio un passo indietro, perché si dice che ha dato i natali? Perché dice? Perché si dice ha dato i natali? Beh, non ha dato Natale, sì, la Pasqua. Dai, fa la fine. Era una domanda, curiosità mia. Vabbè, comunque bastava di non lo so, no, falla finita. vabbè. È l'atteggiamento a volte che, vabbè, comunque scontroso, sì, dici? Boh, non lo so, ma nasconde grande timidezza, sì, sì, vabbè, questo, okay, questo atteggiamento. Quindi dicevamo, Ale, se riesco a finire un discorso sarei grato. Quindi beh, insomma, andiamo in Scozia, andiamo soprattutto a Glasgow e passeremo soprattutto indie rock, questo l'abbiamo detto. E io passerei direttamente al primo dei nomi in scaletta. E qualche tempo fa una rivista musicale molto prestigiosa inglese, si chiama Mojo, ha fatto quelle classifiche tanto, tanto amate o prese in giro, non so, da Nick Corby, no? Hanno fatto la solita copertina, era sulle 50, i 50 titoli più importanti nella storia della musica indie. Sul podio, e il primo gruppo non poteva che essere inglese, e comunque un grande gruppo perché sono gli Smiths. Gli altri due nomi sul podio, al secondo e al terzo posto, sono due band scozzesi. La terza band che oggi abbiamo lasciato fuori dalla scaletta sono i Jesus and Mary Chain. Al secondo posto invece c'è un gruppo che non è poi così noto, almeno alle nostre latitudini, è un gruppo che si chiama Orange Juice, e il titolo che hanno scelto è un album splendido che si chiama You Can't Hide Your Love Forever, non puoi nascondere il tuo amore per sempre. E gli Orange Juice è un gruppo nato nel 1979, questo disco appena nominato è il loro primo, è un disco del 1982, è nato grazie a, insomma, il fondatore del gruppo, l'anima del gruppo è un tale Edwin Collins, e appunto che ha dato, che ha formato quelli che potrebbero diventare gli Orange Juice insieme ad alcuni studenti della scuola d'arte di Glasgow, tant'è che la loro prima apparizione in pubblico è proprio al Victoria Café della Glasgow School of Art, e siamo nell'aprile del 79. In questo si innamora di loro dopo il primo concerto un tale Alan Horn, un tizio molto importante anche se non è un musicista nella storia di questi ultimi 30 anni della musica scozzese, perché che cosa succede? Lui si innamora follemente del gruppo e si improvvisa manager, dice: io sarò il vostro manager, siamo sull'onda del punk, della più che grande, vi piaccia o no? Che vi piaccia o no, della più grande eredità del punk, che è quella del fai da te, no? Il do it yourself. Quindi lui si innamora di loro, diventa loro manager, e visto che non ha altri strumenti decide anche di fondare un'etichetta proprio per produrre gli Orange Juice. Questa etichetta prenderà il nome di Postcard Records, ed il primo vinile che darà alle stampe questa gloriosa etichetta, che poi però non è durata moltissimo, è proprio il primo EP degli Orange Juice, che si chiama Falling and Laughing, e l'ascolteremo tra poco. Il motto di questa etichetta è The Sound of Young Scotland, e se all'inizio è scimmiotta, cioè è sulla falsa riga del motto della Motown, no? Che era il The Sound of Young America. Cioè il sound della nuova America, della giovane America diventa il sound della giovane Scozia. Sembra un po' una presa in giro, in realtà sarà, non sappiamo quanto erano le sue intenzioni, ma rivelerà un motto profetico, perché sarà davvero così, e la Postcard Records è l'etichetta che fa partire l'effetto domino per un'esplosione incredibile di gruppi che proveremo a raccontare in parte in questa puntata. Purtroppo l'etichetta di Alan Horn non regge tantissimo, non c'ha una vita particolarmente felice dal punto di vista economico e finanziario, quindi quando loro stanno registrando, loro gli Orange Juice stanno registrando il primo disco e di fatto è completato, l'etichetta fallisce, il loro primo album uscirà 2 anni dopo, nel 1982, mentre il singolo è uscito nel 1980 per una major, in questo caso è la Polydor. E noi però abbiamo scelto di farvi ascoltare il loro primo singolo, abbiamo scelto di farvi ascoltare la versione originale, perché nonostante la bassa fedeltà, diciamo così, nonostante non brilli dal punto di vista la produzione, sì, non brilla della... diciamo, però ha una magia che la versione poi uscita nell'album non ha. E per chi non li conoscesse, o per chi li conoscesse poco, per chi spero si innamorerà di questo pezzo che stiamo per passare, pochi anni fa finalmente è uscita un'antologia che si chiama The Glasgow School, che mette insieme tutte le session che gli Orange Juice avevano registrato con la Postcard Records. Io penso di aver detto più o meno tutto, quindi Ale, musica. Falling and Laughing, Orange Juice. not say that we should build a safety. All I'm saying is I'm alone, and consequently only my dreams are inspiring me of my heart. Orange Juice, Falling and Laughing. Allora, parliamo un attimo di questo Alan Horn, il fondatore appunto della Postcard Record, personaggio davvero particolare. Lui aveva le idee molto chiare su come fare i soldi, diceva le classifiche sono lì, sta a noi il compito di raggiungerle e la nostra musica deve puntare al mercato più ampio possibile. In quel periodo sicuramente la scena inglese era quella che rubava un po' l'attenzione di, insomma, di tutto l'ambiente musicale, e quindi Alan Horn decise di trasferirsi a Londra. Il suo arrivo in Inghilterra scatena abbastanza un pandemonio, visto i suoi modi, diciamo, non proprio british di trattare e di muoversi nell'industria musicale. Si racconta per esempio di un'aggressione, proprio un'aggressione quasi fisica, con delle minacce a John Peel se non avesse passato il primo singolo prodotto dalla Postcard, appunto questo Falling and Laughing che abbiamo appena ascoltato, degli Orange Juice. E poi delle litigate anche con Geoff Travis, ne abbiamo parlato, il capo della Rot Trade, che all'epoca si occupava della distribuzione di tante etichette e quindi anche della Postcard. E il sound degli Orange Juice, ma anche quella degli altri gruppi legati alla Postcard, perché è vero, gli Orange Juice erano il gruppo di punta sul quale aggiungo che l'ho perso prima nel racconto, nelle tante chiacchiere, a dimostrazione del peso del gruppo, la Bibbia del post-punk, cioè il libro di Reynolds, abbiamo citato tante volte, che in Italia è tradotto semplicemente post-punk, in realtà prende il nome dal pezzo più celebre degli Orange Juice che non abbiamo scelto. Il pezzo è Rip It Up and Start Again, e questo è il titolo originale del libro di post-punk. Tutto qua? Tutto qua. Perfetto. Però ho perso il filo. Dicevo appunto che il sound degli Orange Juice e anche quello degli altri gruppi era comunque all'epoca fu comunque una specie di ventata di freschezza un po' nell'ambiente indipendente, soprattutto dopo la morte nel 1980 di Ian Curtis. I critici musicali, le fanzine, in maniera sicuramente anche diciamo non con coscienza, fu fatto senza pensarci probabilmente, comunque si cercava un po' una via di uscita dal post-punk, dal suo lato oscuro più pericoloso, e i gruppi della Postcard erano proprio perfetti per incarnare un po' questo bisogno di rinnovamento. Intanto erano ironici il loro aspetto, di tutti questi gruppi lo potete vedere anche nelle copertine degli album, tutti molto pettinati, puliti, vestiti molto bene. Poi le copertine stesse degli album, anche le copertine, gli Orange Juice erano due delfini che saltavano fuori dall'acqua, sì, tanta allegria, l'immaginario di quegli anni assolutamente in Gran Bretagna era proprio qualcosa che quasi un po' stonava. E poi loro anche nelle apparizioni pubbliche, quando rilasciavano interviste, ci tenevano per esempio ad avere l'immagine dei bravi ragazzi, loro non facevano uso di sostanze stupefacenti, ogni tanto qualche cannetta se la concedevano, e avevano un rapporto anche con le fan, ci tenevano molto a dire che loro non erano assolutamente interessati ad eventuali rapporti occasionali, erano tutti in cerca del vero amore, quindi insomma avevano questa immagine molto da bravi ragazzi, non assumevano alcol per esempio. E comunque, oltre agli Orange Juice, anche altri gruppi facevano parte della Postcard, per esempio gli Aztec Camera, i Gobi Twins e quelli che abbiamo scelto noi, i Joseph Key. Il loro è una sorta di disco punk ispirato molto ai Talking Heads. Tra l'altro anche David Byrne nacque proprio in Scozia, sì, a pochi chilometri da Glasgow, se non sbaglio. E diventano loro... Anche McNoffler. Anche McNoffler, certo. Il gruppo di punta della scena ediburghese, a differenza degli Orange Juice che erano di Glasgow. E anche se poi le attenzioni che l'etichetta riservava agli Orange Juice creò anche nel loro caso qualche incomprensione e un divorzio abbastanza rapido. E tra l'altro, magari questo interessa anche il nostro amico Liborio Conca, i Joseph Key diventano anche il gruppo di riferimento di questa scena di Edimburgo molto legata alla letteratura. Loro stessi raccontano che non c'era un gruppo all'epoca di Edimburgo che non andava in giro con un libro, per esempio di Kafka, e tra l'altro Joseph Key quello prendono... Non mi pare tu poi, no? Assolutamente sì, io sì. E... Ma anche... Herman Hesse, Dostoevsky, Camus, dai Fabio per piacere, non farmi gestacci fuori onda. Comunque la canzone che abbiamo scelto è quella ispirata proprio alla morte di Ian Curtis, che sconvolse quindi non solo il Joseph Key ma anche tutto l'ambiente musicale di quegli anni. Si chiama It's Kinda Funny, è proprio una canzone che ha un messaggio, nel senso non fatevi prendere da tutte le tristezze, delle difficoltà della vita e cercate un po' di reagire. It's Kinda Funny. Prego. No, se mi permetto di dirti che l'hai dato per scontato, ma non hai detto il perché nasce il nome del gruppo, è un personaggio nel libro di Kafka, no? Sì, l'ho detto. Hai detto? L'ho detto. Sicuro? Dal quale Kafka, dal quale prendono proprio il nome. Mi va bene, distratto. E ce li sentiamo. It's Kinda Funny, Joseph Key, questa è Radio Onda Rossa. Feelings we find, so I'll just Non mi ricordo se abbiamo detto che Joseph Key prendono il nome da un libro di Kafka. No, non mi, sa di mi no. sembra. Mi sa di no. Comunque quindi l'ho detto adesso. Sì, qual è Joseph il libro di Kafka? Oddio, mi hai colto impreparato. Il processo, mi pare, no? Ah, io non lo so, non leggo Kafka. Dai. Abbassa. Che? Abbassa poco poco. Tutto per abbasso. Cortesia. E vabbè, facciamo adesso. Eravamo nell'81 con Joseph Key. Andiamo qualche anno più avanti, non troppi, siamo nella metà degli anni 80. Il gruppo di cui che stiamo per passare è un gruppo forse tra i più noti di quelli che sono in scaletta oggi, sono i Primal Scream, gruppo che insomma è passato alla storia soprattutto come portabandiera di quello che è stato chiamato acid rock, e magari una puntata della prossima stagione o non so se quest'anno di Note Code Città proveremo a raccontare la scena. Hai deciso di, tu? Di Matt Chester, abbiamo non me l'hai parlato. Detto tutta la scena degli inizi anni 90 di Manchester e la contaminazione fra rock e musica house. Insomma, loro sono passati la storia soprattutto per questo, ma hanno fatto tanto altro, continuano a fare ottimi dischi e insomma sono vivi e vegeti, e anche se in parte hanno cambiato quello che resta, che caratterizza tutta la loro produzione, è sempre il contaminare, cioè di mischiare il rock con di volta in volta musica house, techno e comunque più in generale con la musica dance. E loro sono di Glasgow, nascono nel 1985, i fondatori sono Jim Betty e soprattutto Bobby Gillespie. Quest'ultimo è già un nome importante nella scena musicale scozzese, perché sarà il batterista di un disco enorme che oggi non passiamo, che è Psycho Candy dei Jesus and Mary Chain. E ammazza, potevi mettere però. Vabbè, oh. Oh, vabbè. Sono molto conosciuti, quindi erano più sacrificabili, vabbè. Rispetto ad altri. Ma l'hai detto che parliamo dei Primal Scream? Sì, lo sto dicendo, okay. Ora mi sembra. Comunque introduciamo un altro, oltre ai Primal Scream e Bobby Gillespie, un altro protagonista che insomma introduciamo ora è Alan McGee. Alan McGee è il fondatore della Creation Records, e l'etichetta che appunto con cui usciranno i primi singoli, i primi EP dei Primal Scream, ma che è passata la storia soprattutto per i My Bloody Valentine, ma ancora di più per gli Oasis, cioè questa etichetta indipendente produrrà i primi due album degli Oasis. E non so perché non esiste più, è stata fondata nell'83 e è stata sciolta nel 2000. Probabilmente il buon McGee, visto i successi che ha incassato in senso proprio letterale con gli Oasis e con i tanti altri gruppi che ha prodotto, probabilmente ha scelto di staccare dall'ambiente e godersi non lo so, la bella vita, questo non lo so. Comunque noi di Primal Scream abbiamo scelto di passare non un pezzo del loro album più monumentale, blasonatissimo, ha ragione per carità, e Screamatetica, ma abbiamo scelto il secondo singolo della band. E la canzone si chiama Velocity Girl, sono 85 secondi che non lo dico io, lo penso anch'io, ma è descritto così da tanti critici e osservatori, è pura perfezione pop. Primal Scream, Velocity Girl. Here she comes finita, ma ho fatto in tempo a alzare col subito. Che poi l'abbiamo dimenticata nella puntata bonsai. Nella puntata bonsai, questa era, sì, era perfetta. Senti, devo fare una domanda? Certo. Il kilt, Sì. È fico. Le iniziali incise le hai fatte mettere dopo o lo, cioè, certo, l'hai fatto fa su misura già così con le iniziali? È che io compro così a naso. No, magari ne avevi trovato uno che c'aveva, no, già su misura, poi ho chiesto dopo, ho chiesto. E sei venuto in motorino così col kilt? Vabbè, ma, e fa caldo. Ma proprio lo indossi proprio come lo usano i scozzesi? Posso, scusami. Dai, oh signor, certo, oh signor. Vabbè, andiamo avanti per favore, va. Allora, facciamo un piccolo passo indietro mentre gli Orange comunque. Vabbè, scusami, se non ti devi vergognare. Invece è bello che uno porta avanti anche le tradizioni, insomma. Vabbè. Allora, mentre gli Orange Juice erano costretti nell'81, appunto, l'abbiamo accennato prima, a lasciare la Postcards per firmare con la Polydor e ad avviarsi poi anche, mi permetti di dire, verso sonorità anche un po' più pop? Fantastico. E condivido. E mentre anche Joseph Kee si scioglievano dopo il primo album nel 1982, e ci sono almeno tre altri nomi importanti di questa scena scozzese che vanno citati per il loro contributo fondamentale a questa stagione, e sono gli Associates, gli altri The Magis e i Simple Minds. Lo passiamo di che i Simple Minds, no, il fatto che hanno una, diciamo, sono diventati poi un gruppo molto commerciale, hanno venduto veramente una marea di dischi. Vabbè, credo stiamo sui 30 milioni di dischi. No, no, esatto, però sono sempre stati un po' snobbati, il pop, no? È un sinonimo di poca qualità, il pop non è solo, ci mancherebbe altro, però sono sempre stati un po' snobbati, dai, Simple Minds, no, non credi? Sì, vabbè, insomma, sì, ma anche no. No, non c'ho una risposta, nel senso, non ero così, insomma, è un gruppo, qua mi sono esplosi a metà anni, sì, 80, quanti, quindi non ero proprio così navigato a metà anni 80. No, no, strano. Però no. E comunque, loro, fatto sta che Simple Minds dal 79 e l'82 hanno sfornato una serie di album veramente molto belli, in particolare ce ne sono due, che uno è Empires and Dance dell'80 e un altro si chiama New Gold Dream, dai lavori più interessanti della New Wave di quel periodo. Noi da Empires and Dance ci ascoltiamo la traccia che apre l'album, si chiama I Travel, loro sono i Simple Minds. Un trellino sui Simple Minds, allora ripartono. Vedi il trellino che non ti aspetti sui Simple Minds? Ma i Simple Minds sono stati... E tra l'altro ha chiamato un ragazzo, non so se vuoi rispondere tu, e ci chiedeva, ma Joseph chi? Il nome, da chi deriva? Ma io credo a un libro di Kafka. Vero? Perché io anche io ho avuto il dubbio, però gli ho detto resta in attesa. Quanto la pagherò questa distrazione, Ale? No, senti, a parte gli scherzi, invece lo sai che... Io prima ho detto i Simple Minds sono sempre stati un po' snobbati. In realtà mi sa che li ho sempre snobbati io. Probabilmente sì. Perché quando ero piccolo, ti racconto questa storia perché secondo me è molto interessante anche per chi ascolta. E mamma mi parcheggiava sempre da un cugino che si sentiva sempre e solo Simple Minds. Io ero piccolo, avevo 10 anni, quindi boh, probabilmente sta cosa che andavo da sto cugino, sentivo sempre Simple Minds, io poi alla fine li ho un po' odiati. Tra l'altro colgo l'occasione per salutarlo, non lo sento da circa 30 anni. Ciao Gianluca, non so se riuscirò a andare. Mi manchi. Vabbè. Vabbè, comunque finora abbiamo sentito. Hai un Kleenex? No, Orange Juice, c'ho la manica del, c'ho un pezzo di kilt. No. Senti, no, per come lo indossi. Non cadiamo. Ti prego. Orange Juice, Primal Scream, e Joseph Key, Simple Minds ora, tutti gruppi importanti, e importantissimi anzi, però se chiediamo a in Scozia a quella che viene, agli amanti della cosiddetta musica alternativa, ancora più te lo chiediamo a Glasgow, chiediamo qual è il gruppo indie per il gruppo che amate di più, non c'hanno dubbi, risponderebbe un gruppo anche questo che non so quanto sia conosciuto qui in Italia, che si chiama i Pasters. Pasters è un gruppo di appunto di Glasgow, un gruppo nato nella metà degli anni 80, il loro primo album, la canzone che abbiamo scelto è presa proprio dal primo album, è del 1987, anche loro usciranno inizialmente con la Creation Records. È un gruppo fondamentale non solo perché, e lo ascolteremo, perché fanno semplicemente una, soprattutto il disco di debutto, non solo perché è un grandissimo album e fanno grande musica, ma anche perché hanno avuto un ruolo chiave nella scena scozzese, di Glasgow in particolare, perché il fondatore del gruppo, Stephen McRobbie, che poi firmerà come Stephen Pastel, cioè il chitarrista e la voce, insieme a lui ci saranno due ragazze, Annabel Wright al basso e alla voce anche lei, e alla voce e alla batteria Katrina Mitchell. Ecco, e loro facevano base in un negozio di libri e di dischi, per tornare al discorso che facevi prima tu, quanto è stato anche, non so se di moda, ma se era moda, era una bellissima moda, e quanto era diffusa l'abitudine di scambiarsi i libri, di leggersi, certo, di incontrarsi su quello. Cioè lui aveva insomma aperto un negozio che era sia libri che dischi. Questo negozio è ancora aperto a Glasgow, è abbastanza centrale su King Street, si chiama Monorail. Insomma, un po' per questo, un po' per la musica che facevano, diventano, insomma, senza farla troppo lunga, sì, diventano un gruppo chiave nella scena scozzese. Il loro primo album, Up for a Beat, è un assoluto capolavoro. Loro non hanno una discografia così generosa. Dopo quell'album del 1987 faranno altri 4 album più una colonna sonora. L'ultimo album del 2013 è anche molto bello, The Los Amis, ma come dicevo non torneranno più ai livelli del loro primo album. Da questo disco abbiamo scelto una delle tracce, vabbè, il disco non è noto in sé forse qui, ma comunque una delle tracce meno note ma bellissime, si chiama Train Tractor. Buon ascolto, loro sono i Pasters. In che periodo ci vai, scusa? Occhio perché devono rinnovare il locale, Just Truck, Train, Tractor, The Pastels a Radio Onda Rossa, questa è Note Cosa Città. Vi stiamo raccontando un po' la scena scozzese, Glasgow e dintorni. E, però speriamo che vi state godendo la scaletta, perché veramente ci piace, vero, anche a me piace molto. Non so se riusciamo a rendere l'idea parlando, forse vediamo troppo, ma beh, non vabbè, tocca a te adesso. Non possiamo sapere. Ti voglio mettere in difficoltà. No, non mi metto in difficoltà, perché adesso farei uno spin-off. Andrei a parlare di un gruppo che in realtà potrebbe dire, ma che c'entrano? Esatto, che ci azzeccano. E sono gli AC/DC, un gruppo per antonomasia australiano. In realtà ci azzeccano molto, come direbbe Tonino. Il buon Di Pietro. Perché sia Angus che Malcolm Young, fondatori del gruppo, sono nati a Glasgow, hanno trascorso l'infanzia lì insieme ai loro fratelli e sorelle. Loro erano, se non sbaglio, in sei, mi sembra, 5 maschi e una ragazza. E dopo l'infanzia i genitori decidono di trasferirsi a Sydney, in Australia. Appena arrivati in Australia, loro sono stati, credo che abbiano passato qualche mese all'interno di un ostello, e lì hanno incontrato un altro ragazzo, si chiama Dave Egas, anche lui è immigrato, questa volta gallese, e formano un gruppo di nome AC/DC. Il nome lo trovò la sorella di Angus e Malcolm. Dopo pochi mesi, prima ancora di iniziare a registrare, si accorgono però i fratelli Young che Dave Egas non era molto adatto alla loro musica. Lui era un po' più fricchettone, dice che girava con gli zoccoli, loro non lo vedevano proprio di buon occhio, e quindi trovano un altro invece immigrato scozzese, abitava in una cittadina che si chiama Forfar, e Bon Scott, che diventerà poi il cantante degli AC/DC fino almeno alla sua morte nel 1980. E tra l'altro a Kirremuir, credo si pronunci, sta vicino Forfar, la città natale appunto di Bon Scott. Nel 2006 il comune ha fatto costruire anche una statua dedicata al grande frontman degli AC/DC. Ho letto di una inaugurazione in cui i fan sono arrivati da tutte le parti del mondo a festeggiare questo avvenimento. Però a Glasgow gli AC/DC registrano uno dei loro live, se non il loro live più bello, che si chiama If You Want Blood You Got It. Abbiamo già passato nella nostra puntata sui dischi live, e tra l'altro loro e questa data rientrava all'interno di un tour mondiale, era il 1979, credo, poco prima della morte di Bon Scott. Infatti è l'unico live degli AC/DC con lui, e loro scelsero proprio la data di Glasgow poi da pubblicare. Il legame tra gli AC/DC e la Scozia non si ferma qui, perché qualche anno fa, nel 2017, quando è morto proprio Malcolm Young, è stato sostituito dal nipote di Angus e Malcolm, e lui invece era nato proprio a Glasgow, e quindi la tradizione scozzese degli AC/DC continua ancora. Noi abbiamo scelto di ascoltarci Hell Is a Bad Place to Be, tra l'altro uno degli inizi più portentosi che io trovo, insomma, se non conoscete il pezzo e questa versione live, fate caso all'attacco proprio della voce di Bon Scott, perfettamente in sincro con Angus e con il batterista. AC/DC da If You Want Blood You Got It, Hell Ain't a Bad Place to Be, Radio Onda Rossa. bravo. Se vuoi parlare, vedi tu. No, penso che parlassi tu. No, perché? Ho visto che ti hai spostato il microfono. Tocca a me e io ritorno in Scozia, Scozia, diciamo così. Va benissimo la storia che hai raccontato, il loro legame con la Scozia, il fatto che il disco sia stato registrato lì, però torniamo proprio a parlare di gruppi scozzesi che hanno fatto musica in Scozia. Loro sono il prossimo gruppo in scaletta, sono i Vaselins. Loro in realtà non sono di Glasgow, ma no, in realtà non sono di Glasgow, ma sono di Edimburgo. Poi di fatto hanno gravitato intorno a Glasgow perché lì è il cuore dell'industria musicale, della scena musicale scozzese. E loro sono un duo, il duo è formato da Eugene Kelly e Francis McKee. Non sono stati fortunatissimi come band, o meglio, hanno provato il successo, ma visto, lo stiamo provando a descrivere, visto la miriade di concorrenti di livello che avevano, loro non sono fortunatissimi, nel senso che nascono nel 1986 per sciogliersi poi nel 90. All'attivo in quella data avevano soltanto un album e una manciata di singoli e di EP. C'è però un fatto che cambia radicalmente la loro carriera, poi loro resteranno abbastanza sfortunati e quindi non sfrutteranno appieno questa fortuna, nel senso che un certo Kurt Cobain è innamoratissimo di loro, è uno dei loro più grandi fan e quindi comincia a parlarne nelle interviste, fino a quando poi dopo l'esplosione di Nevermind mezzo mondo, quantomeno tutti i fans dei Nirvana cercano di recuperare tutti gli spunti che non c'era ancora, cioè internet non era così diffuso, quantomeno insomma cercano di recuperare tutti le influenze, gli spunti, i gruppi nominati da Cobain. Cobain è stato molto generoso in questo, tanti artisti, adesso qua non c'entra nulla con la Scozia, devono, per esempio Daniel Johnston tra gli altri, devono un pezzo della loro fama o della loro fortuna musicale a Kurt Cobain. E il legame con, che succede? Succede che il gruppo deve sciogliere nel 90, i Nirvana non sono ancora esplosi, però già loro dal vivo facevano sempre, avevano in scaletta sempre due o tre pezzi dei Vaselins. Un pezzo poi finirà addirittura su Unplugged, un pezzo stellare che si chiama Jesus Want Me for a Sunbeam, e appunto uscirà poi nella versione acustica sul MTV Unplugged. Altre due canzoni che sono spesso dal vivo e che poi finiranno nella raccolta in Stessi Side sono Molly Sleeps e Son of a Gun. Questa è la canzone che ci ascolteremo. Grazie al successo, insomma, dei Nirvana, grazie a questo effetto traino, loro riusciranno con una raccolta che prende il nome di The Way of the Vaselins, a Complete History, e ricominceranno a fare album, però non sono non reggono e si risciolgono poco dopo, e poi Eugene Kelly prova una carriera solista. Adesso, vabbè, per farla breve, sono tornati sulle scene da una decina d'anni, adesso pubblicano per la Sub Pop, che è una delle etichette cardine di quello che verrà chiamato poi, di quello che è stato il grunge negli Stati Uniti e non solo. E un aneddoto prima di farvi ascoltare la canzone: in Nirvana in due occasioni c'è un legame anche fisico con i Vaselins. La prima volta quando Nirvana vanno in tour in Scozia e per il concerto di Edimburgo, che appunto è la città natale della band, e chiedono a loro di aprire, di fare da spalla, di aprire il concerto. Poi nel ormai mitologico Festival di Reading del 1991, quello in cui, forse per questo lo rende più riconoscibile, quello in cui Cobain, che aveva l'abitudine di lanciarsi di spalle sulla batteria, e si ruppe un braccio durante quel concerto. Prima dell'incidente, durante quella data, in vita sul palco Eugene Kelly, e suoneranno insieme proprio Molly Sleeps e Son of Gun, che è appunto la canzone che ci ascoltiamo ora. Why? già abbassato, sì, non mi fa segni. Ho già fatto, ti preoccupare, sto avanti. Comunque, grande pezzo, sono afghano. Molto dei, bello. Dei Vaselins. Posso ringraziare il mio amico Flavio? Certo. Che ha scritto, fai complimenti per questo pezzo che hai scelto tu, però purtroppo forse non lo sapeva. Grazie Flavio. Senti, no, restiamo ovviamente in Scozia, restiamo abbastanza vicini ai Vaselins, nel senso sia a livello temporale, perché il gruppo di cui stiamo per parlare nasce poco dopo, nasce alla fine degli anni Ottanta, sono i Teenage Fan Club, loro sono di Glasgow e non di Edimburgo. Come si chiama il fan club dei Teenage Fan Club? Non lo so, ci penso e poi ti rispondo in privato. E, grazie di avermi distratto. Comunque dicevo, nascono alla fine degli anni Ottanta e nascono grazie all'incontro di, cioè i fondatori del gruppo sono Norman Blake e Raymond McGinley. Si conoscono e formano la band intorno a un altro dei luoghi storici di Glasgow, che è lo Splash One, un locale, credo questo, ancora tuttora in attività. E ci vai? Forse perché non so. Che leggevo che a giugno devono rinnovare la licenza, poi se c'hanno problemi. Vabbè. Giro, male che va, trovo chiuso. Peccato però, perché poi uno non è che ce l'ha sempre. Vabbè, però speriamo che. Vabbè, poi è talmente economica la Scozia. Infatti. No? Vabbè. Volendo ci torno la prossima volta. Comunque, il loro primo album è il 1990 e si chiama A Catholic Education. E da subito ottiene un grande riscontro, soprattutto di critica, ancora non tantissimo di pubblico. Anche qui entra un'altra volta in gioco il ruolo di Kurt Cobain, perché a testimonianza che la scena scozzese era molto sotto la luce dei riflettori, quantomeno degli addetti ai lavori, diciamo così, anche in questo caso Cobain si spende belle parole nei loro confronti in numerose interviste, ne parla più di una volta e c'è una foto in cui lui indossa una sua magliettina, una magliettina del gruppo, quindi insomma. Che è magliettina? Una maglietta, c'hai ragione, chiedo scusa, una maglietta della band. E quindi anche in questo caso Cobain fa, gli regala notorietà. E anche in questo caso ritorna al Festival di Reading del 91. In questo caso loro sono proprio sul palco insieme a. Nel giorno prima di Nirvana, insomma, in una delle tre serate in cui. Si è svolto in quell'anno, era il secondo anno, la seconda edizione del festival, un'edizione stellare tra parentesi, in cui anche qui probabilmente un giorno non sarebbe male dedicargli una puntata. E dopo A Catholic Education, l'album con cui fanno il botto, in cui il loro nome comincia a girare molto, addirittura vengono descritti col senno di poi come tra i progenitori, i padri, poi progenitori no perché sarebbe nato poco dopo il grunge, comunque uno dei padri del grunge, in realtà non proto grunge, il legame non è affatto così diretto, però appunto come dicevo prima, testimonianza che la seconda metà degli anni Ottanta è stato un periodo d'oro della scena indipendente scozzese, e possiamo dire grossolanamente che tra la fine della punk e post-punk in Inghilterra e prima dell'esplosione della scena di Manchester e di Seattle negli Stati Uniti, insomma, in quegli anni erano le band scozzesi a dare dimostrazione di, insomma, a dare a fare scuola. E vabbè, adesso non faccio tutta la storia del gruppo, comunque per dire quanto il disco del 91, stavo per dire, si chiama Band Wagonesque. Questo ha un grande successo anche di pubblico, e quindi per questo poi saranno invitati sul palco del Reading Festival. E un successo così importante che addirittura la rivista Spin, anche questa è una prestigiosa rivista musicale britannica, lo mette al primo posto degli album del 1991, cioè lo mette davanti, per dire, dischetti come Nevermind di Nirvana e Out of Time di Rem e Lawless di My Bloody Valentine. Quindi insomma un gruppo in cui si punta molto, e avranno poi, continueranno ad avere successo, avranno qualche pochi bassi in realtà in questa prima fase. Il loro, diciamo, picco, non dal punto di vista magari della qualità musicale, ma certamente dal punto di vista commerciale, è nel 97, quando esce il loro Songs from Northern Britain, un disco che raggiunge addirittura il terzo posto, e non sono così facili da ascoltare. Comunque raggiungono il terzo posto nelle classifiche britanniche e partono un tour mondiale insieme ad altri due gruppetti, i Radiohead e gli Oasis. A questo proposito, il fratello scemo di Gallagher, Liam, dirà dei Teenage Fan Club che è la più grande band del mondo a parte gli Oasis. Sembra che un po' abbia messo le mani avanti, perché in realtà, se adesso l'ascoltate, la canzone che passiamo, Everything Flow, è molto, cioè gli Oasis, diciamo che poi usciranno 4 anni dopo, perché questa canzone è contenuta nel primo album della band del 90. Il debutto di Oasis mi sembra che del 94, al massimo del 93. Insomma, si sono parecchi ispirati fratelli Gallagher appunto ai Teenage Fan Club. Basta chiacchiere, ascoltiamocela la splendida Everything Flow. Everything Flows. Teenage Fan Club, a Radio Onda Rossa, a Nove Cose Città. Questo è sempre il racconto della Scozia, Glasgow e dintorni. Siamo arrivati agli anni 2000 nel nostro ultimo blocco di canzoni, ne sono rimaste, se non sbaglio, tre. E ci arriviamo con uno degli... tre, fidati. E ci arriviamo con uno dei gruppi, tra l'altro, più famosi probabilmente della scena scozzese, ovvero i Franz Ferdinand, sempre a cavallo tra indie, rock, new wave, poi ultimamente, insomma, da un po' di tempo a questa parte, anche l'elettronica sempre più preponderante nel loro sound. Nel 2004, col disco d'esordio omonimo, un successo da circa un milione di copie, disco di platino, tanti singoli famosi, ne faranno appunto uno dei gruppi più importanti di quegli anni, e insieme ad altri gruppi che in quel periodo proprio facevano il loro esordio, su tutti Interpol, Strokes e Arctic Monkeys, un bel poker. Sì, assolutamente. E il quartetto di Glasgow riesce comunque a riscuotere ancora successi, in particolare nelle esibizioni dal vivo. Tra l'altro, se non sbaglio, torneranno in Italia proprio quest'anno. Lo scorso anno a Roma hanno diviso il palco con un altro gruppo a cui affideremo la coda della nostra puntata, ovvero i Mogwai. Noi dal primo disco di Franz Ferdinand ci ascoltiamo la traccia che chiude l'album, si chiama 40. Franz Ferdinand, 40, ultima traccia del loro album di esordio. Vai, fa. Vai, restiamo negli anni... Restiamo negli anni 2000, ormai ci siamo. Sì. Addirittura nel 2014, una premessa. Noi abbiamo chiamato questa puntata From Scotland with Love, dalla Scozia con amore. L'abbiamo fatto innanzitutto perché per richiamare la Postcard Records, da cui abbiamo preso avvio in questa puntata per raccontare la scena scozzese, per parlare degli Orange Juice, un po' perché, o forse soprattutto perché, questo From Scotland with Love è il titolo di un grandissimo album uscito appunto nel 2014 e a nome King Creosote. King Creosote è il moniker, diciamo il nome d'arte, di un tizio che si chiama Kenny Anderson. Kenny Anderson è un cantatore, in questo caso non siamo fuori da Glasgow, fuori da Edimburgo, siamo a Fife, quindi in un centro minore della Scozia. In Italia si è cominciato a conoscere soprattutto grazie a una collaborazione con il grandissimo John Hopkins in un disco che miscela folk e musica elettronica. Però lui ha una carriera incredibile alle spalle, ha già pubblicato una cinquantina di lavori tra EP, singoli e album. Il suo penultimo lavoro, quello che stiamo per ascoltare, appunto la terza volta che lo dico, del 2014. In realtà questo non è, nasce come è un commento, diciamo così, musicale, è una colonna sonora, un documentario che si chiama come l'album From Scotland with Love, un documentario di una regista neozelandese che si chiama Virginia Hitt. Io credo, ma non lo so con certezza, che il legame che questa regista neozelandese sia in realtà una neozelandese di prima o seconda generazione, cioè che sia legata a genitori o a nonni nati in Scozia. Ne hai parlato prima tu, raccontando la vicenda degli SDC. Anche la Scozia, come l'Irlanda, come la vicina Irlanda, è stato un paese di forte emigrazione. La diversità rispetto all'Irlanda è che se gli irlandesi, anche qui lo sto dicendo in maniera grossolana, ma andavano nella stragrande maggioranza dei casi andavano negli Stati Uniti, la Scozia ha scelto, al di là dell'immigrazione interna verso la vicina Inghilterra, si è più sparsa nel mondo e è andata molto anche nel continente australiano, quindi tra l'Australia, dicevi prima tu, degli SDC e la Nuova Zelanda. E il documentario io non l'ho visto, ma lo descrivono come una sequenza, come insomma tantissime immagini di repertorio della Scozia, e nei suoi testi, il disco è magnifico dal punto di vista musicale, nei testi Anderson, cioè King Creosote, insomma racconta tante vicende in parte personali, cioè parte dalla sua di esperienza, quindi dalla sua infanzia. Lui è uno che non ha mai abbandonato la Scozia, quindi la racconta a ragion veduta, ma probabilmente, e poi mischia anche tante altre storie. Tra le tante altre storie che racconta c'è appunto quella legata all'emigrazione. E la canzone che abbiamo scelto, che è tra le più belle di un album che è tutto magnifico, e si chiama Miserable Strangers, è appunto dedicata, affronta il tema dell'emigrazione che così tanto ha colpito, diciamo, ha attraversato il paese. Il disco è tutto pieno di melodie veramente magnifiche e memorabili. Questa è tra le più straordinarie. E questo genere viene chiamato folk da camera, chamber folk, per quello che vi interessa. Comunque il pezzo è veramente di una bellezza commovente. King Creosote, Miserable Strangers. Quanto ci fa piacere sto trillino, la facciamo ripartire. And oh, how you sleep to pave our way. upon this key, and only to be prescient overseas. Is this the end of the beginning, or the beginning of the end? And these are miserable strangers, will be the making of our friends. They've been dropped upon this key, just the same as you. With each step forward, there's two lips back, and you so bewildered inside. Yet you know we'll have the new life that we talked of loud and proud. Hug them high and hold them deep. For we'll soon forget these faces in the crowd, blurred by our tears, and yet we'll miss them year on year. So let's pull ourselves together like the others, we'll throw our hats into the air and try to raise a heart to each Miserable Strangers su Radio Onda Rossa, King Creosote. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ancora non ho ricordato anche l'appuntamento, anzi no, l'appuntamento, la sottoscrizione per Radio Onda Rossa, la campagna 30 per 1000 che è stata come si dice? Prolungata fino alla, festa, appunto, del 14 e 15 allo Strike. Allora, ultima. Cacciate questi soldi. Dai, un po'. Allora, ultima canzone per noi, affidiamo la chiusura della nostra puntata, uno dei gruppi più famosi emersi dalla scena di Glasgow, che sono i Mogwai, nati alla metà degli anni 90, quasi in contemporanea con un altro gruppo che non abbiamo fatto in tempo a mettere, ovvero Belle e Sebastian. Questo a testimonianza di quanto poi sia appunto questa scena scozzese veramente molto molto ricca nella metà degli anni 90. Infatti ci torniamo sicuramente. Sì, ma tu hai detto già tre puntate che faremo, a me non mi hai mai chiesto se mi va di farlo. Dai, un po' vabbè. Però sul serio, non solo i Belle Sebastian, abbiamo tolto gli Arab Strap, abbiamo tolto Arab Strap, Boys, tra l'altro Belle Sebastian e The Twins e Mogwai e Mortal Coil. Esatto. Superstar. I Del Gasos. insomma, e tutti i gruppi anche messi sotto contratto dalla Chemical Underground, un'etichetta fondamentale, indipendente, un vero e proprio punto di riferimento per la Scozia. Tra l'altro sono ancora attivi, ancora. Sì, sì, adesso è proprio il cuore della. Hanno bellissimi studi che si possono visitare da gennaio a maggio e poi da luglio a dicembre. È molto bello, se ti capita andare in quel periodo, vai. Allora, il pezzo che avevamo scelto in realtà. E tra l'altro i Mogwai che resteranno con la Chemical Underground fino al 2003, poi loro stessi formeranno una loro etichetta, la Rock Action, come il nome del loro bellissimo album. Allora, il pezzo che avevamo scelto inizialmente era Cody, la seconda traccia di Come On Die Young, ma il 31 maggio è morto un grande artista a cui ci fa piacere fare anche un piccolo omaggio per quello che può contare. E il frontman, no, non me voglio sminuire, però insomma negli anni 60 una delle primissime band psichedeliche, ovvero i Fifth Floor Elevator, Rocky Erickson si chiamava, una vita insomma molto triste, molto da raccontare, insomma non è semplice. Fin da giovane inizia a soffrire di schizofrenia e poi fu arrestato subito dopo il successo del disco per un possesso di marijuana veramente misero, fu condannato a 10 anni di detenzione, non li scontò tutti, ma fu mandato poi in un ospedale psichiatrico dove subì anche diversi elettroshock. Nel corso della sua vita provò sempre comunque a promuovere la sua musica. Il fratello, tra l'altro, a un certo punto è riuscito anche ad ottenere il suo affidamento perché non era autosufficiente. Poi a metà degli anni 90, grazie anche alla riscoperta un po' di quel genere della psichedelia, Michael Stipe, mi dicevi, fu un personaggio fondamentale, no? Uno di quegli artisti amatissimi dagli altri artisti, e tra i suoi grandi, prima abbiamo parlato tanto di Cobain come sponsor, Stipe è stato tra i grandissimi sponsor di Erickson, di Erickson, ma anche altri artisti minori rispetto a un nome così gigantesco come Stipe, ma anche gli Okkervil River, con cui firmeranno un grandissimo disco, per esempio, forse una delle cose più belle che ha fatto in questi ultimi anni Erickson. E quindi fatto sta che a partire dalla metà degli anni 90 Erickson ricomincia a suonare, a proporre la sua musica, e nel 2008 ha l'occasione di collaborare proprio con i Mogwai per un brano uscito in realtà solo in EP che anticipava l'album The Hack Is Howling. L'EP si chiama Bat Cutter, la canzone poi fu ripresa nell'album, ma invece questo singolo, quello che ci ascoltiamo noi, è rimasto semplicemente nell'EP per il quale Erickson dava il suo contributo alla voce. La canzone si chiama Devil's Rights e loro sono i Mogwai. Noi ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana, sicuramente andremo in posto invernale, no, direi, fa. Sì, assolutamente. Devil's Rights, grazie a tutti e buona serata. Mogwai.